Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Io e Mino demmo una mano a caricare la roba sotto l'occhio vigile della moglie e dei fascisti. Con una tacita intesa caricammo per ultima una mezza forma di parmigiano e la deponemmo proprio in un angolo, in fondo al cassone del mezzo. Sono Franco Sorbi, ho 87 anni, vivo a un piccolo paese che si chiama Trecasali, provincia di Parma. Sono pensionato, ovviamente, data l'età. Ho due figli, di cui uno è colonnello dell'aeronautica e l'altro non lo è. So we called SUSY supersymmetry. It was proposed as a solution of many problems in physics and energy physics. A lot of us are looking for SUSY because it's a nice theory and we think it should be there and we have to find it. L'altro giorno, raccontando una storia che parlava della scoperta del World Wide Web, di internet più o meno, da parte di una ricercatrice italiana, abbiamo raccontato una storia in cui io sono incappato per caso, andando alla ricerca del CERN di Ginevra e delle persone che ci lavorano, la storia di due ragazzi che cercano una teoria che si chiama supersimmetria. Uno di questi due ragazzi è italiano, si chiama Maurizio, e io ne ho parlato per quello che avevo capito dal video che avevamo mandato in onda. Il giorno, la mattina dopo, aprendo la posta di voi siete qui, @radio24.it, io trovo questa mail. Salve, sono quello che cerca la SUSY al CERN. Ieri ero in macchina dalle Marche, dove vivono i miei, di ritorno proprio a Ginevra. Radio 24 mi fa compagnia, non mi aspettavo certo che vi metteste a parlare di supersimmetria e di me. A questo punto, ovviamente, noi Maurizio lo abbiamo chiamato. Pronto Maurizio? Pronto. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te e ascoltatori. Come stai? Dove sei? A Ginevra, ovviamente. Sono in ufficio. Sei nel tuo ufficio al CERN? Sì. Che è dove ti abbiamo visto in quel video dove ti ho scovato per caso un paio di settimane fa. Maurizio, grazie per essere qui innanzitutto. So che c'hai un sacco da fare lì al CERN, quindi ci dedichi questi due minuti al volo. E al volo ti chiedo le cose che vorrei sapere da te, sostanzialmente. Che cos'è SUSY? Cioè, che cos'è la supersimmetria e perché la stiamo cercando... Scusami il plurale maestatis. Perché la stiamo cercando così ardentemente? Beh, diciamo che... la supersimmetria sarebbe la soluzione a tutti i nostri problemi, nel senso, in fisica delle particelle abbiamo una teoria che descrive sostanzialmente tutto quello che abbiamo osservato fino adesso negli esperimenti, sì. Però sappiamo che la teoria non sta in piedi da sola e le cose funzionano troppo bene. La teoria non ci piace, non è bella. Ok, cioè tu dici, noi abbiamo teorizzato tutto, però non basta quella teoria lì. La teoria è un senso, è puramente estetica la cosa. La teoria ha da un punto di vista matematico, ovviamente, ha delle due o tre cosine che non tornano. Una delle quali è il fatto che i nostri colleghi astrofisici hanno osservato quella che hanno chiamato materia oscura. E pensano che sia una particella fondamentale, non pianeti che non hanno visto, ma una particella fondamentale, tante particelle, e noi non abbiamo una particella che si comporta in quella maniera. Quindi la supersimmetria la predice una particella così. Ok, allora io continuo a eccitarmi tantissimo quando sento voi fisici parlare di queste cose, continuando a capirci pochissimo. Mi dici da quanto la stai cercando la supersimmetria? Va direttamente, nel senso, cercando veramente di produrla e poter dire di averla prodotta dal 2007, quando mi sono trasferito al CERN. Okay. Però già prima, dal 2000, da quando ero in tesi di laurea, lavorando su un altro esperimento a Stanford. Ok, Maurizio, poi ti devo salutare davvero. Che cosa spinge un ragazzo in forma, delle Marche come te, a fare il ricercatore, a fare il fisico e a cercare teorie come queste? Per me è stata curiosità e, diciamo, una certa tendenza ad annoiarsi con le cose che si studiano nei libri e cercare qualcos'altro. per esempio io il bosone di Higgs non lo cerco perché l'avevo studiato a scuola e la cosa cominciava a diventare noiosa. Maurizio, io ti ringrazio per la chiacchierata veloce. Noi però, noi te l'abbiamo chiesta e so che tu un po' di tempo te lo troverai per scriverci una storia da mandarci a Voi Siete Qui, in modo che ci facciamo un'intera puntata e chiacchieremo con ancora più calma. Magari vi racconto come scopro la Susi. Ecco, magari, non sarebbe male. Ricordate, se volete cercare Susi Supersimmetria e sul nostro profilo Facebook invece trovate il video in cui ho incontrato Maurizio e alla fine siamo arrivati qua. Grazie ancora Maurizio, in bocca al lupo. Ciao, a presto, grazie mille, ciao. 349-238-6666, abbiamo aperto ricordando una puntata di due giorni fa, ma noi guardiamo sempre avanti e quindi raccontiamo la storia di oggi. La storia di oggi è una storia che arriva invece da diversi anni fa, non diversi qualche giorno fa, raccontata da un signore che si chiama Franco, che sentiremo più tardi, e il titolo di questa storia che lui stesso ha dato è Il formaggio del federale. Era il triste periodo in cui la guerra, pur volgendo al termine, ci attanagliava con i suoi pericoli, le paure, le scorrerie dei truci epigoni di un regime agonizzante, oltre ai bombardamenti e alla fame. Noi ragazzotti, prossimi alla leva, venivamo parcheggiati in campagna, lontani per quanto possibile dal disastro cittadino di macerie e di soprusi. La mia famiglia, o almeno parte di essa, era sfollata in una casa di contadini poco distante da Parma, dove era arrivata fuggendo fin dai primi bombardamenti. In quei giorni in teoria ero ancora studente, però data la situazione in quel momento, che c'erano i bombardamenti, c'era la guerra e così, ero semplicemente sfollato lontano dalla città per evitare i bombardamenti. Comunque 17, forse 18 anni, adesso esattamente non lo ricordo. Nello stesso posto viveva Mino, un massiccio ragazzo, mio vecchio compagno, nei campeggi organizzati dalla gioventù del Littorio, in cui ci intruppavamo per poterci offrire volontari alle corvee nelle cucine. In una villa padronale a fianco, requisita ai vecchi proprietari ebrei, si era installato il federale di Reggio Emilia, con la moglie e un bambino in fasce. L'avventura che qui racconto fu appunto un furto che facemmo a questo personaggio. Il federale, nelle amministrazioni fasciste, era la massima autorità politica di una città e in pratica, al tempo della Repubblica di Salò, aveva potere di vita o di morte su chiunque. Un potere del quale non esitava ad approfittare. Stranamente la polizia non aveva scoperto che proprio in quel posto egli era circondato da partigiani comunisti, autori di azioni per le quali in seguito furono deportati. E Mino era uno di questi. Quando il federale ritenne venuto il momento di darsi alla fuga, chiamò una squadra di militi fascisti e caricò tutte le masserizie su di un camioncino coperto da un telone. Io e Mino demmo una mano a caricare la roba sotto l'occhio vigile della moglie e dei fascisti. Con una tacita intesa caricammo per ultima una mezza forma di parmigiano e la deponemmo proprio in un angolo in fondo al cassone del mezzo. Come quasi sempre avveniva a quei tempi, alle poche automobili circolanti, il motore non si mise in moto. Io e Mino eravamo due tipi grossi e robusti, perciò invitammo i partenti a salire in cabina e consigliammo ai militi di mettersi sulla pedana a fianco del camioncino per meglio vigilare. Dopodiché ci mettemmo a spingere, con tanta forza che in un centinaio di metri il motore si mise a girare. Mino fu un fulmine. Prese il pesante formaggio e, sfidando la sorte che poteva fare volgere lo sguardo ad uno dei militi, lo gettò in un fossetto al lato della strada. A questo punto, languidamente, salutammo con la manina la distinta compagnia che si allontanava. Non appena quelli furono scomparsi, raccogliemmo la forma e corremmo a nasconderla in un buco in un campo lontano. Questo bambino era un ragazzotto, pieno di speranze nel futuro, perché ciò che avevo in quel momento non mi soddisfaceva assolutamente, a parte la guerra, ma era proprio la situazione generale che era insoddisfacente. Non passò molto tempo che con grande apprensione vedemmo ritornare il camioncino. Ci facemmo coraggio e ci avvicinammo. La signora ci spiegò che si erano venuti a trovare nel mezzo di uno scontro a fuoco e avevano ritenuto opportuno fare ritorno. Ci disse anche, con rabbia, che erano capitati fra una masnada di gentaglia alla quale si erano sottratti a fatica, rimettendoci solo una forma di parmigiano che quelli erano riusciti a far sparire. Noi ci mostrammo sorpresi, di tanto ardire e dispiaciuti per quella che a quel tempo rappresentava per chiunque una perdita consistente. Ma purtroppo, così vanno le cose al mondo. Nessuno, all'infuori di noi, seppe mai di quel formaggio, nemmeno i nostri parenti prossimi. Quasi ogni giorno facevamo una passeggiata nei campi e ritornavamo ben rifocillati. Everyone I know goes away in the year. And you could have it all. Ci ha mandato una bellissima foto Franco, che trovate sul nostro sito, come sempre alla nostra pagina Voi Siete Qui, sul sito di radio24.it. In realtà lui non sta guardando l'obiettivo, ho la sensazione che sia un autoscatto. Ha su una bella camicia bianca e lui ha non tantissimi capelli, ma anche quelli sono bianchi. Pronto Franco, buongiorno. Buongiorno, sono io. Matteo. Io sono, sì. Matteo, giusto? Sì. Perfetto, come stai Franco? No, abbastanza bene, malgrado l'età non mi lamento, ecco. Mi ricordi quanti anni hai? Sono 87. 87, quindi sei del 1927. 27. Quindi la ricorda, buonanotte, la guerra te la ricordi molto bene. Tra l'altro che avevo, quando è successa quella cosa lì avevo 17 anni, quindi ti ricordo bene. Mino, non ho capito che fine ha fatto Mino, l'hai più rivisto Franco? Mino è morto da qualche anno. Sì, l'avevo rivisto, faceva il giornalista. Giornalista, scriveva sull'Unità. E quindi hai avuto modo di rivederlo? Sì, come no. Dopo siamo rimasti amici per un po' di tempo. Poi sono andato all'estero per molto tempo, quindi non l'ho più visto. Che cosa hai fatto nella vita? Perché sei andato all'estero, Franco? Ma all'estero sono andato un po' dappertutto, dall'America all'Asia, all'Africa, tutto tranne l'Australia. E per lavoro immagino, giusto? Per lavoro, sì. Perché per cosa facevi? Ero nel campo delle condotte petrolifere e acquedotti. Ma sei ingegnere? Sono geometra. Sei geometra, ok. Quindi erano cose tecniche, quindi. Sì. Franco, senti, a noi è rimasto un grande interrogativo, perché tu nella tua presentazione ci dici che hai due figli, uno che è colonnello dell'aeronautica e l'altro no, hai detto, e quindi ci domandavamo cosa facesse l'altro figlio. L'altro figlio è impiegato, ha fatto un po' di tempo il lavoro che facevo io, poi per varie ragioni ha rinunciato ed ora è impiegato di una ditta. E invece hai dei nipoti anche, Franco? Sì, ne ho tre. Attorno alla ventina d'anni. Ah, ok, quindi è quell'età un po' difficile. Sì. Franco, come passi la tua giornata? Raccontami, ascolti tanto Radio 24? Sì, ascolto alla mattina soprattutto. La mia giornata la passo un po' al computer, un po' scrivo sia delle memorie che dei racconti che nessuno pubblica, tranne in Spagna, non me la pubblicano in Spagna. Ah, ma infatti si vede che hai confidenza con la scrittura. E poi nel pomeriggio stai sempre un po' al computer, fai delle cose tu. Non esci a berti qualcosa con gli amici al circolo, no? No. Gli amici molto spesso vengono a casa mia a mangiare. A trovare un buon cuoco. Ah, Franco, senti, tu ti sento in forma, se stai bene, giusto? Ma io veramente sto bene, nulla di grave. A 87 anni, che cosa speri di fare? Cioè, che progetti hai per il futuro? Io non ho un futuro. Come non hai un futuro, Franco? Senti, stai meglio di me e di Bonini messi insieme. Io penso prossimamente di andare per un po' di tempo in un'isola greca, così a passare un po' di tempo là, perché mi piacciono le isole greche. Hai già individuato quale? Sì, Leros. Leros, che è cosa? Cos'è? Cicladi? No, non è Cicladi Leros. È uno del Dodecaneso. Ah, nel Dodecaneso. Ma perché le conosci bene le isole greche, quindi? Come scusano? Le conosci bene le isole greche, se hai scelto esattamente una? No, ne conosco un paio. Questa non la conosco ancora, ma andrò ugualmente perché mi attira. Franco, quando hai voglia di mandarci una storia, ce la mandi. Voi siete qui, @radio24.it. Ma veramente ne ho mandato un altro del mio primo arrivo, del mio primo volo e del mio arrivo per la prima volta in America. Allora le andiamo a cercare perché abbiamo un lungo archivio di storie da leggere e sicuramente appena la leggiamo ti facciamo sapere. Franco, grazie ancora, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi di tutto. Ciao, buona giornata. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Storie di guerra ne abbiamo raccontate diverse, in una intera settimana durante il mese di luglio, tutta dedicata. Quella di Franco però, più che una storia di guerra, è una storia di povertà, la povertà che stringeva le cinghie di buona parte degli italiani a metà del secolo scorso. Tra tutte le storie che la gente della mia generazione ha sentito raccontare dai propri nonni, ce n'è una che mi ricordo abbastanza, questa raccontata da Franco. Mia nonna paterna ha cresciuto mio padre e mio zio praticamente da sola, dal momento che suo marito, mio nonno che io non ho mai conosciuto, era invalido. Lei gestiva una merceria in cui si serviva praticamente tutto il paese. L'aprì poco dopo la fine della guerra e, quasi senza esperienza, in un attimo si trovò a vendere gomitoli di lana, rocchetti di filo, biancheria intima e a fare piccoli rammendi. C'era una signora che ogni tanto andava da lei a comprare un po' di filo o qualche gomitolo, appunto, e la pagava per lo più con un sacco di patate o con qualche verdura coltivata nel suo orto. Un giorno però mia nonna si accorge che mentre lei va nel retrobottega per prendere quello che la signora ha chiesto, la signora da uno scaffale afferra un gomitolo di lana verde e se lo mette in borsa. Mia nonna non dice niente, lascia passare. Dopo due giorni succede la stessa cosa, mia nonna è nel retrobottega, la signora prende dallo scaffale un altro gomitolo di lana dello stesso colore della volta precedente e lo infila nella borsa. A questo punto mia nonna torna al bancone, guarda la signora che a suo dire non aveva per niente una faccia da ladra e le fa una proposta. Senta, facciamo così, le dice, lei adesso con la lana che si è presa dal mio negozio mi fa un maglione, poi me lo porta, io lo metto in vetrina, poi io mi tengo il costo della lana e tutto il resto del guadagno è suo. La signora arrossisce e senza dire una parola annuisce e poi se ne va. La settimana dopo la signora torna con un maglione da uomo di una taglia incomprensibile, color verde muschio. Mia nonna lo mette in vetrina e lo vende in pochi giorni. Ecco, quella signora per 30 anni ha lavorato per mia nonna tutti i giorni. Tutti i giorni andava in negozio da lei e prendeva gli ordini che arrivavano per i maglioni, i cappelli, gli abiti, sciarpe, calze, qualsiasi capo d'abbigliamento avesse bisogno di una confezione. Poco prima che mia nonna chiudesse il negozio, all'inizio degli anni 80, la signora è andata in pensione e credo che non ci sia una persona in paese che non abbia avuto nel cassetto un capo fatto dalla stoffa del negozio di mia nonna, ma con le mani di quella signora che prendeva di nascosto la lana dello scaffale. E alla fine, dalla storia di Franco, ho capito un po' di cose. Ho capito che, uno, quando hai fame davvero, la paura diventa meno importante di tutto il resto. Due, non sempre è una fortuna che i furgoni di oggi si accendano al primo colpo. Tre, a volte, in alcuni casi, si possono fare degli accordi. Quattro, una forma di formaggio valeva bene il rischio dell'olio di ricino. E cinque, la povertà è comunque sempre una brutta bestia. I see the doctor, can you help me with my mom? And he said, oh, your mom is out of tune. Tonight we party at the central corridor. The Pritzman look for good, but God is at the dancing floor. Scaricate il podcast del programma dal nostro sito Radio 24 alla sezione podcast, altrimenti andate su iTunes e vi abbonate gratuitamente oppure cercate sulle varie app, in primis quella di Radio 24 che manco dovete scaricare direttamente in streaming. Il nostro profilo Facebook è Voi Siete Qui Radio 24 o Voi Siete Qui R24 è il profilo Twitter, invece per continuare a mandare storie Voi Siete Qui @radio24.it. Se avete 5 secondi di tempo cercate l'Eros su Google Immagini e capirete che probabilmente Franco ha tutto tutta la ragione del mondo. 87 anni, Franco ha tutta la ragione del mondo. Grazie a Tiziano Bonini, grazie a Margherita Hina, grazie a Fabio Cantadori, ma grazie soprattutto a lui, il protagonista e autore della storia di oggi, Franco, perché appunto la storia era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Maria Teresa, vivo a Cremona. La storia di domani è la mia e parla della Via del Sale. Questa è la mia storia e io sono qui.